il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Ci sono persone che per capacità o per meriti riescono ad avere successo nella vita quando ancora sono giovanissimi. Altre volte invece i risultati si ottengono in età più avanzata grazie alla maturità acquisita. Beh, questo secondo caso non riguarda quasi mai il mondo dello sport, a meno che non si possa tenere in considerazione la grande carriera del calciatore di cui oggi raccontiamo la storia, perché è un uomo che fino a 30 anni è stato un perfetto sconosciuto per la maggior parte dei tifosi di tutto il mondo. Poi è diventato uno dei giocatori più longevi e in qualche modo famosi della storia del calcio. Stiamo parlando del leone d'Africa, il camerunense Roger Milla, o Roger Milla, come volete. Roger Milla è il più famoso calciatore africano di tutti i tempi, forse ancora di più di Eto'o, Drogba, Weah. Pur senza essere il migliore tecnicamente, però sicuramente è stato un eroe nazionale nel suo paese e ha unito un popolo sotto la bandiera dello sport. E non deve essere stato facile crescere in Camerun negli anni in cui ancora c'erano gli ultimi strascichi del colonialismo europeo. Eh sì, perché Albert Roger Miller, conosciuto come Milla, anzi Milla alla francese, nasce a Yaoundé nel 52, alla capitale del Camerun. Della sua infanzia si sa che a soli 13 anni inizia a giocare nel calcio professionistico. Segna 45 gol in 52 partite. Niente male. Siamo nel 65, l'Europa non sa ancora niente del calcio africano, perché non ci sono i talent scout che prendono i bambini, li fanno crescere nei vivai delle ricche squadre europee. Il calcio africano è completamente sconosciuto. Milla viene comprato dalla squadra dei Leopard di Douala e vince a 18 anni il primo di due scudetti di fila. È un bomber implacabile, ha una media gol altissima, così a 21 anni ha già il suo posto in nazionale. Abega, un dribble, si rabba un centro, Abega, Abega, toujours. Abega Milla, Milla Abega, le but! Arriviamo al 1976, Roger Milla ha 25 anni, ormai è un giocatore affermato in Camerun, raggiunge un grande traguardo della sua carriera perché vince il pallone d'oro africano e finalmente, grazie anche a questa vittoria, si aprono per lui le porte dell'Europa. In realtà si parte non da una top squadra, il Valenciennes, che gioca nel campionato francese, lo acquista, però lui si accorge subito del grande divario che esiste tra il calcio africano e quello europeo, perché non è più il goleador da 40 gol a stagione, fa 5 gol in Francia, 6, poi molta panchina. Il sogno del giovane leone africano sembra essere già terminato. Ci sono voluti 4 anni prima che riuscissi ad ambientarmi nel calcio francese. Prima il Valenciennes, poi il Monaco, alla fine mi sono ritrovato a giocare in Corsica, per il Bastia. E lì le cose sono cominciate ad andare meglio. Forse la fierezza del popolo corso si sposa bene con la fierezza di lui, leone del Camerun. La coppiata è vincente e con il Bastia, o il Bastia, lui vince la Coppa di Francia. Siamo arrivati all'81 e lui ha 29 anni, quindi ha già un'età importante. E se poi arriva dal Camerun viene considerato una riserva, la carriera sembra essere alla sua chiusura, anche perché nei vari campionati intanto non c'è ancora la mentalità internazionale di oggi, poi le regole sono abbastanza restrittive, nei vari campionati ci sono solo uno o due giocatori stranieri per squadra. Insomma, l'unica occasione di vedere giocatori di altri paesi è la vetrina internazionale dei campionati del mondo. Bene, il Camerun centra la qualificazione per i mondiali di Spagna dell'82, una qualificazione storica perché per la prima volta la nazionale si può confrontare con le rivali europee e sudamericane e il Camerun si ritrova nel gruppo A con la Polonia di Boni e Zmuda di lato, con il Perù di Barbadillo e Uribe e naturalmente con l'Italia di Berzot, che in quel momento è una squadra in crisi, lo vedremo, poi vincerà il mondiale, però in quel momento comunque il Camerun è la Cenerentola del girone, perché le altre squadre sono già molto quotate, almeno così la pensano i giornalisti. È l'ultimo atto del nostro girone Italia-Camerun. Si tratta di scegliere la squadra che andrà a far compagnia alla Polonia, già promossa, per il passaggio al secondo turno. Pareggio e vittoria sono per la squadra italiana, soltanto la vittoria per la squadra del Camerun. Il Camerun ha pareggiato 0-0 le altre due partite col Perù e la Polonia, anche l'Italia viene da due pareggi, il girone è equilibratissimo, quindi tutto si decide all'ultima partita. All'Italia basta un pari purché vengano segnati un gol almeno per parte. Dopo una partita a fasi alterne, al 61esimo Ciccio Graziani colpisce una palla apparentemente innocua, il portiere camerunese scivola in cono, un altro molto famoso, la palla entra in rete, 1-0, peraltro un gol del quale si parlerà molto, perché molti insomma diranno che il Camerun non era proprio tutto così compatto con la voglia di vincere, ci fu anche uno scandalo in merito, ma comunque qualcosa accade dopo neanche un minuto. 1-0 per gli azzurri al 16esimo minuto del secondo tempo. È un premio meritato a quello che ha fatto di più l'Italia fino a questo momento, ed ora vediamo se il Camerun abbandona questa tattica di attesa. Adesso, per ottenere la qualificazione, il Camerun deve segnare due volte. Udu, Milla, immediatamente il pareggio. Perfino Martellini sembra stordito dall'immediato pareggio del Camerun. Nessuno si aspettava una reazione così di carattere. Il gol lo segna Mbida, la partita finisce così, appunto, con un 1-1 che lasciò più di un sospetto sulla vicenda. Il Camerun torna a casa senza aver perso una partita, poi la storia la sapete. L'Italia invece si riprende dopo e si va anche a vincere il mondiale. Il falco e il gabbiano. Roger Milla ha già 30 anni e c'è la possibilità che questo sia il primo e unico mondiale, anche perché il Camerun si è qualificato una volta, però il fatto che si qualifichi non è così matematico, l'età comincia a farsi sentire, almeno questo è quello che pensano tutti, ma di sicuro non è quello che pensa lui, Roger Milla. Quell'anno fummo la sorpresa dei mondiali. Se avessimo fatto un solo gol, l'Italia non avrebbe vinto il suo mondiale. Ma per noi comunque fu importante dimostrare che il calcio africano stava diventando competitivo. Però se pensate che la vetrina abbia fatto bene a Milla, cioè se pensate con la testa di oggi, cioè giocatore africano, fa un gol ai mondiali, gioca bene e quindi diventa una strapagata star in Italia, vi sbagliate, perché Milla va ancora a Bastia a giocare 2 anni e poi va a giocare nella Serie B francese in una nobile decaduta che è il Saint-Étienne. Bene, 2 anni per tornare in A e poi la decisione di cambiare squadra, andare a Montpellier per giocare ancora in B, insomma. Lui dimostra di essere un giocatore, diciamo, di basso profilo, modesto, conscio delle proprie capacità, ma anche dei propri limiti di età e dei propri limiti tecnici. Giocare in Europa è molto diverso da giocare in Africa. C'è molta pressione, molta competizione, ed è facile farsi travolgere da tutto questo mondo. Alla fine, credo di aver fatto la scelta migliore. Prima della presumibile chiusura della carriera ci sono delle belle soddisfazioni, perché il Camerun va alle Olimpiadi di Los Angeles, poi vince la Coppa d'Africa nell'84 e va in finale nell'86, però purtroppo ai mondiali del Messico, appunto dell'86, il Camerun non si qualifica. Lui ha 34 anni, nel campionato francese continua a giocare, insomma, con alterne fortune. Però la carriera è in chiusura. Nell'89, a 37 anni, lui lascia il calcio francese, si trasferisce alle isole della Réunion per giocare in un modo più tranquillo. È un calcio di livello tecnico inferiore, dove può pensare a vivere un fine carriera da fuori classe, giocando in un campionato di persone molto più scarse di lui. Bene, la favola del leone d'Africa sembra finire qui. E invece lui, che ha il solo rammarico di non avere potuto partecipare una seconda volta al campionato del mondo, non sa ancora che il destino ha in serbo grandi sorprese per lui. Milla infatti lascia la nazionale per sopraggiunti limiti di età, perché bisogna fare spazio ai giovani. o forse no? Prepariamoci ad assistere a questa prima partita di Italia 90, Argentina contro Camerun. Ed ecco inquadrata la terna arbitrale, il direttore di gara centrale, il signor Vautreau, ben noto della Federazione Francese. Una formazione del Camerun che ha il duro impegno di dover affrontare quest'oggi l'Argentina, campione del mondo in carica. Via, comincia Italia 90, Argentina Camerun. La voce di Nando Martellini ha lasciato il posto a quella di Bruno Pizzul. Siamo ai mondiali del 90 in Italia. L'Argentina ha vinto quelli dell'86 battendo la Germania con le prodezze di Maradona, la grande cavalcata che è seguita al gol di mano, insomma ve lo ricordate almeno i più grandi di voi. Bene, l'Argentina deve fare il suo esordio da campione uscente e gioca contro il Camerun, che è riuscita finalmente a ottenere un'altra qualificazione alla fase finale prima della partenza. Però succede una cosa incredibile: il presidente del Camerun, Paul Biya, il capo di Stato in persona, telefona a Roger Milla per convincerlo a indossare ancora una volta la maglia della nazionale e andare in Italia. Milla ha 38 anni, sa benissimo di essere ormai âgé, come direbbero i francesi, insomma di essere fuori tempo massimo. In un primo tempo rifiuta, poi alla fine si lascia convincere, almeno per accompagnare gli altri giocatori ed essere di esempio, di supporto con la sua esperienza ai più giovani. Con la palla e in aria, gol! E c'è il gol su errore clamoroso di Pumpido, il gol di Oman Bic, battuto a sorpresa, vedete la gioia dei giocatori del Camerun. Me lo ricordo, 8 giugno 1990 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. C'è la partita inaugurale, l'Argentina campione del mondo, quella di Maradona, di Sensini, di Balbo, si fa beffare da Oman Bic, un ragazzo di 24 anni che ha uno stacco incredibile, vola in cielo e, complice una incertezza di Pumpido, segna il gol della inaspettata vittoria dei Leoni d'Africa. Tra i pali del Camerun a difendere il risultato c'è un altro vecchietto, classe 56, quel Thomas Nkono di cui abbiamo già parlato, quello che scivolò in maniera sospetta sul gol di Graziani, ma comunque un grande portiere che stava sempre in porta con la tuta anche quando c'erano 40 gradi all'ombra. Il pubblico prende in simpatia la squadra che sembrava più debole, insomma il Camerun diventa la squadra straniera più sostenuta in tutto il mondiale. Finiscono la partita in 9, perché il calcio loro è sempre molto scomposto, falloso, è facile farsi espellere. Lui in questa partita entra solo negli ultimi 10 minuti, c'è l'emozione di tornare a giocare un mondiale. 8 anni dopo quello di Spagna. La seconda partita, il Camerun la gioca contro la Romania e qui accade l'incredibile. The long pump downfield shouldn't pose Andoni too many problems, although Miller might hustle him. Miller scores a goal for Cameroon. It's come from nowhere. Rinvio della difesa. Palla campanile, la palla che rimbalza ai limiti dell'area, Milla è lì, salta, vince un rimpallo, il difensore cade, lui no, guarda il portiere e lo fulmina, gol, 1-0. Lui va verso l'angolo del campo e si mette a ballare con la bandierina. Da questo momento nasce una moda, insomma non è stato il primo, ma è stato uno dei primi, la moda di rendere teatrale l'esultanza. Però le emozioni di quella partita non sono mica finite, rimanete con noi per vedere come è andata a finire la storia di Roger Milla e la storia di Camerun-Romania. Il falco e il gabbiano. Abbiamo lasciato Roger Milla e tutti i suoi compagni di squadra del Camerun, i Leoni d'Africa, in vantaggio 1-0 con la Romania in un mitico incontro durante i mondiali italiani del 90. E la cosa è abbastanza fuori dal comune, primo perché Milla ha quasi 40 anni, secondo perché chi lo ha convinto a giocare malgrado l'età è stato il presidente della Repubblica del Camerun. Lui guida una compagnia di talenti giovani e qualche giocatore molto più vecchio, tra cui il portiere Nkono, che aveva già partecipato all'edizione dei mondiali di Spagna 82. 34 anni Nkono, 38 Roger Milla. Sembrava che fossero lì solo per creare un clima unito nello spogliatoio. Bene, non è così. Intanto si sono sbarazzati dell'Argentina senza tantissimi problemi. E poi, contro la Romania di Agi e Lakatus, Milla ha appena realizzato un gol. Il Camerun è sorprendentemente avanti. Miller still there. Towards Biek. Miller comes on the end of it. Can he get... secondo gol. Il leone d'Africa, lui, diventa a tutti gli effetti il trascinatore della squadra rivelazione dei mondiali. La Romania viene sconfitta, il Camerun approda agli ottavi di finale. E qui c'è un'altra partita molto interessante, perché il Camerun affronta la Colombia, quella di Valderrama, quello biondo con i capelli ricci alla Jimi Hendrix, e quella di Higuita, uno dei portieri più strani, anzi un giorno mi sa che dovremmo fare una puntata su Higuita, il portiere matto, particolare quantomeno. Quindi siamo rimasti a Colombia-Camerun. All'inizio del secondo tempo supplementare il match si è improvvisamente sbloccato. Protagonista sempre lui, il 38enne Roger Mill, entrato in campo al 55esimo al posto di Infede. Al quarto il decisivo raddoppio. Stavolta il gol pesa tutto sulla coscienza di Higuita, spintosi come al solito a metà campo. L'esperto Mill ruba palla e segna a porta vuota il gol che vale i quarti di finale. Eh sì, un'altra doppietta. Il secondo gol è storico, perché si affrontano due leggende del calcio. Higuita, il portiere colombiano, che col suo fare da guascone esce dall'area perché vuole impostare l'azione, ma Mill è lì, il leone del Camerun lo sta aspettando, gli porta via la palla e fa gol, trascina il Camerun nei quarti di finale. Il Camerun delle meraviglie deve affrontare l'Inghilterra. Nessuna squadra africana ha mai raggiunto un risultato simile. Ci riuscirà solo il Senegal nel 2002, però erano già altri calciatori cresciuti, allenati in Europa, che avevano solo lo stato anagrafico africano. Il Camerun invece è una squadra di giocatori che decidono loro cosa mangiare, che magari mangiano il couscous un'ora prima della partita. Insomma, è veramente ancora una squadra che fa parte di un altro calcio. Bene, la vera forza della squadra è comunque la resistenza fisica. E poi c'è Milla, ormai prossimo ai 40 anni. Lui entra sulla partita cominciata, però poi è determinante. Alla vigilia della partita con l'Inghilterra pensavamo che avrebbe potuto accadere di tutto. Avevamo battuto l'Argentina, la Colombia. Niente ci poteva fermare. Ci credevamo veramente. And has Miller! And the referee says penalty. Challenge by Gascoigne and England concede a penalty. Miller sweetly away. La partita è molto spettacolare. Al 15esimo del secondo tempo Miglia entra in area e un'altra vecchia conoscenza del Falco e del Gabbiano, cioè Paul Gascoigne, lo stende al rigore che pareggia il gol di Platt del primo tempo, quindi 1-1. E poi ci sono una serie di episodi rocamboleschi che fanno sì che l'Inghilterra, ancora su rigore, segni il definitivo 3-2 e decreti la fine del sogno del Camerun. Peraltro Miglia e i suoi compagni tornano a casa prima di tutto convinti che questa sarà l'ultima volta che lui parteciperà a un campionato del mondo, e poi insomma con molte perplessità su quella partita. Non ci stanno a perdere. C'è molta delusione in Camerun per l'eliminazione della squadra. Molti accusano l'arbitro di aver aiutato l'Inghilterra. Il rigore è al centro delle discussioni. Forse è ancora troppo presto per vedere una squadra africana giocarsi un mondiale con l'Argentina, con la Germania, con l'Italia. Il mondo forse non è culturalmente preparato all'idea che degli africani possano avere un talento anche superiore a molti loro colleghi europei o sudamericani. Insomma, è ancora la FIFA dei blatter e di gente di questo genere, in cui probabilmente gli interessi superiori valgono più delle ambizioni dei popoli e della gente. È fuori discussione il fatto che fummo la sorpresa di quel mondiale, ma gli sponsor non potevano accettare il fatto che il Camerun arrivasse a sorpresa a modificare gli equilibri. Così probabilmente abbiamo subito dei torti a livello arbitrale per evitare che potessimo andare avanti. Beh, forse lui esagera, certo è dura perdere, nessuno ci sta a perdere, però la verità è che nessuno si aspettava una squadra africana così forte, una squadra che magari prende 4 gol dalla Russia e poi invece arriva ai quarti di finale. Torna in patria Milla, si prende ancora una soddisfazione, vince il pallone d'oro africano. Il primo l'aveva vinto 14 anni prima a 24 anni, adesso ne ha 38, è un Oscar alla carriera, però non è che gliel'abbiano dato così per farlo contento prima del ritiro. Ha fatto 4 gol giocando nel Camerun agli ultimi mondiali, quindi un vero e proprio trascinatore. Bene, lui non ha nessuna intenzione di lasciare il calcio, torna a giocare in Camerun altri 4 anni e si concede anche il lusso di vincere la Coppa del Camerun, un esempio di longevità veramente senza precedenti. Non c'è nessuna magia in quel che faccio. La sola magia è il lavoro, la dedizione, l'allenamento continuo. So che in questi anni sono diventato un esempio per le nuove generazioni, ma tutto quello che ho fatto l'ho fatto per me e per il mio paese. Beh sì, è difficile eguagliare campioni di questo genere. Bene, il Camerun riesce ad approdare ai mondiali americani del 94, quelli che termineranno con la finale dell'Italia di Sacchi persa ai rigori col Brasile. Però questa volta la squadra è veramente debole, anche perché nel frattempo i posti per le africane sono aumentati, quindi anche una squadra non fortissima può arrivare alla fase finale. La squadra è debole e i risultati si vedono. La squadra viene eliminata al primo turno con un punto conquistato e 11 reti subite, ma c'è un altro colpo d'ala perché pareggia 2-2 con la Svezia, poi subisce 3 gol dal Brasile, poi crolla con la Russia, prende 6 gol e perde 6-1. Bene, indovinate chi ha segnato il gol della bandiera. And Cameroon have got a goal. The substitution has done the trick. The old man has not lost the magic. The only thing missing is the wiggle by the corner flag. The old man has not lost his magic. Ritorna la magia. Il commentatore descrive così la zampata di Roger Milla. 42 anni, diventa in assoluto il più anziano giocatore ad aver segnato un gol in una fase finale di un mondiale. Sembra incredibile e non so se questo record verrà mai battuto, potrei provarci io se venissi convocato. Insomma, in questo momento Milla fa un altro colpo d'ala determinante. Non pensavo che avrei ancora partecipato a un mondiale, ma negli anni precedenti ho mantenuto la forma e ho avuto il vantaggio di non partire titolare, ma sempre dalla panchina. Così avevo abbastanza fiato per giocare la mia partita. Il gol è un bellissimo ricordo, forse il più bello di tutti, anche se non è servito a niente. L'ammirazione che tutto il calcio camerunese ha per Roger Milla si fa sentire anche nelle parole di un grande giocatore del Camerun che arriverà molto più avanti e che si chiama Samuel Eto'o. Le plus grand joueur de tous les temps pour moi dans l'histoire du football c'est Roger Milla. Il più grande giocatore di tutti i tempi per me è Roger Milla. È l'uomo che mi ha ispirato in tutta la mia carriera ed è stato colui che ha unito una squadra e le ha permesso di credere di poter giocare alla pari con i più forti. Ci ha fatto capire che unendo le nostre forze e lavorando duramente potevamo raggiungere qualsiasi obiettivo. Dalle parole di Eto'o si capisce quale leggenda sia stato Milla, quanto sia stato il focalizzatore della squadra del Camerun. È quello che ha dato fiducia ai suoi compagni e ha dato loro la disciplina necessaria per conquistare dei risultati, un vero e proprio allenatore in campo che ha preso per mano anche i più giovani giocando assieme a loro. Bene, Milla torna dagli Stati Uniti e ancora non appende gli scarpini da calcio al chiodo. Parte per l'Indonesia, giocherà ancora 2 stagioni fino al 96. Si ritira definitivamente dal calcio professionistico a 44 anni suonati. E tra l'altro nel calcio indonesiano, che è un calcio un po' più abbordabile, fa ancora parlare di sé perché fa 23 gol in 23 partite. Oggi Milla è ambasciatore dello sport del Camerun, lavora nel sociale con associazioni benefiche che raccolgono fondi per progetti di sviluppo del Camerun, fa interviste raccontando la sua carriera, ma anche se ha passato i 60 anni non ha smesso di fare sport. Faccio ancora un po' di corsa, mi tengo allenato. Lo sport è importante non solo per il singolo individuo. Io credo che in Camerun in questi ultimi 50 anni non ci sono state guerre perché il nostro popolo si è riunito sotto la bandiera della nostra nazionale di calcio e ne è stato orgoglioso. Beh, questa è una frase importantissima, perché se il calcio riuscisse a evitare le guerre, e allora sarebbe veramente un toccasana per questo disastrato mondo. E intanto noi abbiamo raccontato un'altra storia che è un colpo d'ala, un colpo di criniera, trattandosi di un leone del Camerun, un uomo che non si arrende e che dà dignità al popolo africano anche in un posto nel quale l'Africa sembrava esclusa, cioè i mondiali di calcio. Noi vi aspettiamo con altre storie, segnalateci via mail al falcoelgabbiano@radio24.it qualche storia in cui voi volete che noi ci si soffermi. Insomma, cercateci, c'è anche il nostro podcast per farvi sentire le nostre puntate ogni volta che volete. E poi ci sono i social, quindi se volete mi trovate. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.